L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta e parliamo di Expo e della tregua olimpica, diciamo così, che si gode all'interno di Expo, dove convivono a poca distanza paesi che fuori di lì non sono propriamente amici, così ad esempio per Stati Uniti e Russia, che sono divisi da schermaglie quotidiane, l'ultima addirittura sui mondiali di calcio e la FIFA. Siamo andati allora a visitare questi due padiglioni per, in questo contesto molto particolare, molto più amichevole ovviamente rispetto a quello dello scambio commerciale, della politica, dell'economia, e siamo andati a visitare i padiglioni con l'idea di potervi dire come hanno interpretato, in particolare in questo caso Stati Uniti e Russia, ma ne vedremo anche altri, le idee e il tema dell'Expo: nutrire il pianeta, energia per la vita. Lo facciamo in ordine alfabetico, quindi parleremo prima della Russia e poi degli Stati Uniti, questo solo per non far torto a nessuno, diciamo, abbiamo scelto l'ordine alfabetico. Appunto per questo iniziamo dalla Russia, che presenta un grande padiglione in legno con un ingresso molto arretrato rispetto al decumano, un ingresso al quale si arriva camminando sotto a una lunghissima tettoia la cui faccia inferiore è coperta di specchi, quindi con l'effetto finale di amplificare ancora di più gli spazi. Il concept di questo padiglione è dello studio Speech degli architetti Sergei Choban, Alexei Ilin e Marina Kuznetskaya. E lo slogan della Russia per l'Expo è crescere per il mondo, coltivare per il futuro. All'interno troviamo quello che ci descrive Irene Patregnani, che è addetta alle relazioni esterne del padiglione Russia. Questo slogan vuole porre l'accento sulle potenzialità che ha la Russia nel garantire la sicurezza alimentare per il mondo intero. E la Russia ha delle grandi potenzialità, basti pensare che possiede un decimo delle terre arabili e un quinto delle risorse di acqua dolce. Abbiamo, all'inizio del padiglione, abbiamo voluto citare tre grandi scienziati che hanno lasciato un'eredità storica e scientifica per tutto il mondo. Il primo è Nikolai Vavilov, che è lo studioso che ha lasciato la collezione di semi più grande del mondo, frutto di oltre 110 missioni nei diversi continenti del pianeta nella prima metà del Novecento, e dalle quali ha raccolto oltre 250.000 campioni di semi che lui ha accuratamente raccolto e selezionato. Il secondo scienziato è... Semi che sono conservati normalmente dove? Presso l'Istituto Vavilov di Mosca, che ci ha concesso, con il quale, in collaborazione nel quale abbiamo organizzato questa installazione. Il secondo è Vladimir Vernadsky, lo studioso famoso per gli studi sulla biosfera, e il terzo, molto famoso e che è studiato in tutto il mondo, Dmitri Mendeleev e la sua tavola periodica. E quindi all'interno del padiglione facciamo dei focus su quali elementi sono contenuti in determinati cibi tipici russi e come vengono anche cucinati nelle diverse tradizioni dei tantissimi popoli della Russia. Mi dicevi poco fa che addirittura, parlando dei semi, che una cospicua parte già appartengono a piante che non esistono più sul pianeta. Questo a maggior ragione sottolinea l'importanza della scienza e della conservazione, dell'attenzione, direi, all'ambiente. Esatto, lo stesso Vavilov, Nikolai Vavilov, diceva già allora, a suo tempo, quanto fosse importante conservare la biodiversità e la natura e i semi della natura per le generazioni future. Dunque, vedo molti studenti che arrivano. I vostri visitatori tipici chi sono in questo periodo? In questo periodo sicuramente sono le scolaresche di ogni età. Vediamo bambini sia delle elementari ma anche più grandi, medie e superiori. E in generale è anche il padiglione, direi che per le scolaresche è molto educativo, perché ed è proprio uno degli scopi del padiglione, quello di insegnare, non solo dimostrare e stupire, ma insegnare ed essere educativo. Grazie a Irene Patrignani che ci ha descritto il padiglione Russia, ora andiamo a quello degli Stati Uniti, che come dicevamo è un altro padiglione molto imponente per dimensione, anche più spumeggiante rispetto a quello russo, che è più sobrio, quindi quello americano è un po' più americano per l'appunto. Il progetto dell'architetto James Bieber ricorda un granaio e con questo vuole rendere omaggio alla tradizione agricola americana. Le pareti dell'edificio sono in pratica un orto verticale su cui si coltiva per davvero e si raccoglieranno i frutti. Il padiglione sottolinea molto la collaborazione tra mondo agricolo e scienza per l'innovazione e la sicurezza alimentare. Infatti lo slogan della partecipazione americana all'Expo è American Food 2.0, uniti per nutrire il pianeta. L'intervista che ascoltiamo è stata realizzata da Gigi Donelli il giorno dell'inaugurazione del padiglione. L'intervistata è Elia Tello, vice commissario generale del padiglione degli Stati Uniti. Spettacolare, veramente sono stata qui per il processo della costruzione. Sapevo che l'Expo sarebbe molto bello, però non me lo immaginavo così incredibile come è. Mi fa così piacere di vedere tanta gente contenta in tutti i padiglioni, tutti gli altri colleghi degli altri paesi che anche sono contenti di essere qui per parlare di questo tema così importante di nutrire il pianeta. Qui si è fatto un gran parlare delle contraddizioni tra questo Expo di slow food, fast food, mixed food e tutto quello che vogliamo. A poca distanza da qui c'è McDonald's, un vero simbolo della cultura alimentare americana. Qui invece si racconta un'altra storia. È interessante perché c'è una discussione molto ampia che dobbiamo parlare, perché tutti questi temi sono importanti per tutti noi e anche in tutti questi padiglioni diversi c'è anche un discorso di sostenibilità, quindi la tecnologia, come arriva il cibo dalla fattoria al tavolo è molto importante e tutti dobbiamo essere nella tavola per parlare di questi temi. Inevitabile accennare insomma alla presidenza e a quanto in particolare Michelle Obama abbia un po' caratterizzato il tema, il sottotema alimentare degli Stati Uniti di questi temi, ma insomma verrà, non verrà? Noi con piacere l'aspettiamo, però non sappiamo ancora, non hanno detto niente, però noi siamo contenti con tutti che vogliono venire al padiglione USA. Tutti che devono venire, naturalmente, è un bellissimo padiglione. Il concetto qui è che è vero che la terra è il nostro tradizionale bene orizzontale, ma ci sono anche altri modi di coltivare. Sì, è molto importante perché l'agricoltura è veramente la prima tecnologia che abbiamo nella storia dell'uomo. Quindi adesso per risolvere questa domanda di come facciamo per fare il cibo per 9 miliardi di persone nell'anno 2050, dobbiamo fare qualcosa diverso per assicurare che tutti possiamo avere il cibo che abbiamo bisogno in un modo sostenibile per tutto il pianeta. Ecco, ma da qui arriva una proposta? Qual è questo diverso? Ci sono tanti proposti della innovazione, proposti di lavorare insieme, di quello che fanno nei città grandi, anche nelle fattorie, nei paesi piccoli. Quindi è veramente di aprire lo spazio per avere questa discussione. Come lei vede, questo padiglione è spazioso. Qui è non solo è una rappresentanza da questo spazio che vogliamo creare per la discussione. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini in questo pomeriggio dell'altro pianeta. Abbiamo parlato prima di due padiglioni dell'Expo, abbiamo parlato del padiglione degli Stati Uniti e di quello della Russia. Adesso cambiamo decisamente argomento, in altre occasioni ne visiteremo per così dire altri insieme di padiglioni. Ora parliamo però di Olimpiadi del 2024. Nel piano di lavoro del CONI per la candidatura di Roma è stato inserito, e ben venga, un programma di ascolto e inclusione delle istanze delle associazioni ambientaliste. Per far questo il CONI ha firmato un'intesa con Italia Green, cui spetterà il compito di istituire questo osservatorio che sarà composto da tecnici ed esperti sia sportivi che ambientalisti affinché questi lavorino e supportino la candidatura di Roma. Chi è questa Italia Green che si occupa di questo progetto? È un'agenzia? che ha deciso di specializzarsi in green economy ed è stata fondata da due pezzi da 90 dell'ambientalismo italiano, Francesco Ferrante e Roberto Della Seta, entrambi, ricorderete senz'altro, capitani di lungo corso in Lega Ambiente. Con noi c'è Roberto Della Seta e che ci spiega che cosa si farà per Roma 2024. Ma quello che ci è stato richiesto, quello peraltro che anche noi avevamo proposto al presidente del CONI Malagò, era di costruire questa candidatura olimpica di Roma su basi radicalmente innovative rispetto al passato. Come si sa, gli ambientalisti, io credo per motivi più che giustificati, spesso hanno visto nei grandi eventi sportivi, delle occasioni non soltanto per sprecare un sacco di soldi pubblici, ma anche per produrre danni ambientali. Ricordiamo quelli, insomma, meno giovani ricordano quello che successe con i mondiali di calcio del 1990, e in generale anche l'ultima candidatura olimpica di Roma, quella che poi si arenò per decisione del governo Monti, era vista tutt'altro che con occhi favorevoli dal mondo più sensibile alle questioni ambientali. Noi credevamo che sia possibile un'altra strada, una strada che per esempio in Europa è stata seguita nel caso delle Olimpiadi di Londra, che hanno visto un ruolo molto attivo, importante del WWF britannico proprio per qualificare in senso green quell'evento olimpico, e con, naturalmente non in maniera totale, ma insomma in effetti le Olimpiadi di Londra hanno recato questo segno. Il tentativo che noi vogliamo fare nel caso di Roma è lo stesso. Vogliamo intanto coinvolgere le associazioni ambientaliste, le grandi associazioni ambientaliste, WWF, Lega Ambiente, Greenpeace, nella costruzione di questo dossier. Abbiamo trovato nel CONI un interlocutore attento, abbiamo trovato anche nel Comune di Roma un interlocutore attento e disponibile, e quindi sta partendo proprio in queste settimane, direi in questi giorni, un lavoro di confronto e io mi auguro di condivisione. Credo che tutti abbiano interesse a che questo lavoro vada bene, prosegua bene. Credo che anche la possibilità che Roma vinca l'assegnazione delle Olimpiadi fra due anni, nel 2017, in parte dipenda da quanto questa candidatura si colorerà di verde. Probabilmente sì, perché ormai l'attenzione è molto diffusa anche nel momento in cui si assegnano questo tipo di manifestazioni, fortunatamente. Che cosa significherà adesso la consultazione appunto con tutte le associazioni? È sicuramente un primo passaggio. Cosa avete in mente per il dopo? Nel senso, ovviamente Roma deve prima vincere questa possibilità, certo. Però insomma, come potrebbe essere un'Olimpiade più green rispetto a quelle del passato? Ma ci sono alcune questioni, io credo, prioritarie. La principale, secondo me, è che tutte le infrastrutture collegate all'evento olimpico nascano non consumando nuovo suolo. A Roma c'è stato un grande problema di consumo di suolo, a Roma, in tutta Italia. L'Italia è in Europa il paese che continua a consumare più suolo, malgrado la popolazione ormai quasi non cresca più. Roma però ha anche tante aree, come si dice, grigie, aree dove la città invece andrebbe rigenerata, dove non c'è più suolo libero, ma ci sono aree dismesse, strutture che non vengono più utilizzate. Ecco, io credo che il primo passaggio, il primo obiettivo sia scegliere per realizzare il villaggio degli atleti, per realizzare le infrastrutture a disposizione, per esempio, della stampa, scegliere aree che abbiano queste caratteristiche, che invece non sottraggano nuovo suolo all'ambiente naturale. Poi ci sono altre questioni altrettanto importanti. Una è quella della mobilità. Io credo che tutti i luoghi dove si dovessero svolgere le Olimpiadi, quindi gli impianti sportivi, il villaggio atleti, il villaggio media, debbano essere raggiungibili rigorosamente attraverso il trasporto su ferro. Credo che la città olimpica che si vuole costruire debba essere una città a misura prevalentemente del trasporto pubblico e anche di forme innovative, nuove e che stanno crescendo molto rapidamente, di trasporto alternativo, come per esempio la bicicletta. E credo che anche questo sia un banco di prova abbastanza decisivo, che farà la differenza tra un'Olimpiade tradizionale e un'Olimpiade green. Questi sarebbero tutti bellissimi, bellissime eredità anche da lasciare poi alla città di Roma, appunto contrastare il consumo di suolo, la mobilità green, le biciclette. Comunque anche Roma ha bisogno anche oggi di queste cose, quindi già programmarle per un'Olimpiade poi significherebbe comunque averle tutti i giorni, questo sarebbe bellissimo. Assolutamente sì, tra l'altro cioè, ci sono alcuni progetti particolari a cui noi già stiamo lavorando anche insieme al Comune, ne è uscito soltanto uno. Che si chiama, ha il nome di un acronimo, l'acronimo è GRAB, come forse sanno anche quelli che non abitano a Roma esiste il GRA, che è il grande raccordo anulare, la tangenziale che, per le automobili che circonda la città. Lega Ambiente, insieme ad alcune associazioni di amanti della bicicletta, ha proposto al Comune di realizzare una cosa che in realtà c'è già, e cioè un grande raccordo anulare delle biciclette, un anello un po' più stretto di quello del grande raccordo anulare che colleghi tra loro piste ciclabili che già ci sono, tratti nei parchi e nelle ville storiche romane, e alla fine ne verrebbe fuori appunto un anello interamente ciclabile che anche in vista delle Olimpiadi io credo sarebbe un grande, grandissimo biglietto da visita per la città. Sicuramente. Allora, lei ha detto più volte noi, riferendosi con questa Italia Green. Allora io credo che sia giusto spiegare agli ascoltatori che cos'è Italia Green. Italia Green è una società, un SRL che noi abbiamo costituito un anno e mezzo fa e che ha come obiettivo quello di proporsi, come posso dire, come una lobby virtuosa. Noi abbiamo l'ambizione di aiutare imprese che hanno deciso di scommettere su questo criterio di produzione e di offerta di servizi a farlo nel modo migliore, a comunicarlo nel modo migliore, a farlo anche tenendosi in rete con chi nella società italiana, le associazioni ambientaliste, tanti gruppi che agiscono dal basso, già ha fatto di questa scelta una propria scelta di vita, di consumo, di comportamento quotidiano. Noi siamo convinti che di un servizio di questo tipo ci sia bisogno, fino adesso non c'era un soggetto che in maniera specifica e con un po' di esperienza alle spalle da parte di chi lo ha messo in piedi offrisse questo tipo di punto di vista, e quindi insomma la nostra convinzione, e devo dire una convinzione che in questi primi mesi di lavoro si è rafforzata, è che di chi offre un servizio di questo tipo, come quello appunto che offre Italia Green, davvero ci sia necessità, e che questa offerta risponda a una domanda che per fortuna nell'economia italiana sta crescendo rapidamente. Sì, e tra l'altro comunicare le scelte green non è facile per nessuna azienda, vabbè, intanto perché bisogna comunicare quelle che sono veramente green, e lì non tutti hanno qualcosa da dire, ma quelli che le fanno poi hanno anche difficoltà a comunicarle al pubblico. Ma intanto io credo che sia importante contribuire, questo che noi cerchiamo di fare, a dissipare un equivoco. Per un po' di anni molte imprese hanno cercato di affidare la loro presunta scelta green semplicemente alla comunicazione. Quindi si dava una pennellata di verde alle proprie campagne pubblicitarie, alle proprie iniziative di marketing, pennellata di verde alla quale però non corrispondevano cambiamenti nel modo di produrre, nei servizi che venivano offerti. Quindi il primo punto che noi insomma cerchiamo di trasmettere ai nostri clienti è che la scelta green deve essere nelle cose, deve essere nelle strategie di produzione, nel tipo di servizi e di prodotti che vengono offerti sul mercato. Chi pensa di limitarsi a comunicare green, ecco, con noi insomma tutto sommato sbaglia interlocutore. Questo è il primo passaggio. L'altro passaggio è essere molto, molto semplici e molto diretti. Io credo che gli italiani ormai siano abbastanza consapevoli. Grazie molte, allora buon lavoro. Beh, ce n'è da fare, ma da qui al 2017 insomma riuscirete a incontrare tutti, a preparare la prima Olimpiade Verde d'Italia. Ci fermiamo qui, grazie a Roberto Della Seta per l'impegno e la lunga intervista. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Vi dico già, per parlare di vento, il progetto di pista ciclabile lungo il Po da Venezia a Torino, e da qui arriva il nome, un progetto che va avanti da diversi anni, ma nel corso di questa settimana, partita proprio oggi, si terrà la cicloturistica del Po guidata dal Politecnico di Milano che ha ideato il progetto. Radio 24 quest'anno è media partner, seguiremo quindi vento in molte delle nostre trasmissioni. In questa particolare trasmissione, L'altro pianeta, faremo un piccolo riassunto di come è andata la settimana, perché a quel punto saremo alla conclusione di vento. Io stessa parteciperò a qualche tappa, quindi avrò modo anche di vedere di persona come vanno le cose. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.